Io sono onorato di essere qui questa mattina e di avere la possibilità di condividere con voi quello che il Signore ha messo nel mio cuore. E voglio comunque sempre dire che prima di dirlo a voi e di permettere e che il Signore lo permetta di dirlo a voi, lo ha detto a me. Quindi io non sto predicando soltanto a voi, ma sto ripredicando a me stesso, perché questa è la cosa che migliore che posso fare, quella di predicare a me stesso. E ascoltare la parola di Dio è un poco come quando io vado a correre con mia moglie. Io e mia moglie andiamo a correre, siamo sportivi, e allora lo diciamo 2 o 3 giorni prima, ci prepariamo psicologicamente, mangiamo leggero e poi ci prepariamo per andare a correre. Metto la fascia, gli occhiali. È serio il fatto, metto la fascia, gli occhiali, c'ho un paio di pantaloni termici perché devo smaltire. E andiamo a correre, generalmente andiamo vicino al mare, anche mia moglie si prepara, si mette la fascia, però non ridete, per lei ridete solo per me, grazie, grazie per questo. Allora poi mentre stiamo andando ci carichiamo, no? Dice, beh, che ce la facciamo, sarà bello, non fa tanto caldo, oppure se fa caldo, già fa caldo, sudiamo, insomma fa sempre bene. E poi iniziamo a correre, allora mia moglie dice, ma io non corro, io cammino a passo veloce perché così smaltisco lo stesso. Però io devo correre. Allora mi sento proprio come Rocky Balboa 1, proprio che inizia a correre e dopo 5 minuti voglio morire. E però ormai ho iniziato, mi sono preparato, ho fatto tutto quel che dovevo fare e corro. E poi vedo uno che mi supera così. Sento il vento e dico, ma quello è giovane. Io all'età sua lo prendevo in braccio e correvo. E poi passa un altro che magari è un po' più stagionato. E allora dico, vabbè, ma quello è allenato. Quello si vede che è allenato. E continuo a correre, continuo a sudare, continuo a voler morire. E poi sento un passo che conosco. Ed è mia moglie. E mia moglie che correndo e cantando le canzoni che ascolto, mi supera. Lì divento di nuovo umile. Lì divento di nuovo proprio me stesso e dico, Signore, grazie che ce la faccio ancora, che mi permetti di camminare veloce a me, mentre lei corre veramente. E lì viene fuori di nuovo la verità e viene fuori l'umiltà della quale abbiamo sempre bisogno. Ascoltare la parola di Dio è la stessa cosa, ci riporta a confrontarci con la verità e ci riporta a dare il giusto valore alle giuste cose, a essere umili. E noi questa mattina guarderemo la seconda metà della storia di Giona, quindi guarderemo i capitoli 3 e 4 del libro di Giona. Però io vorrei che noi non commettessimo l'errore di pensare che il libro di Giona racconta la storia di Giona. Perché se noi ci limitiamo a questo, possiamo andare a leggere un romanzo che è molto più affascinante. Il libro di Giona parla del desiderio di Dio di salvare gli uomini. Il libro di Giona parla di una missione che Dio affida di salvare un popolo. Il libro di Giona parla di una visione di salvare un'intera città. Questo è il vero contenuto del libro di Giona ed è questo quello che noi dobbiamo apprezzare. Perché se fosse soltanto la storia di Giona, io vi assicuro che in mezzo a noi ci sono tante storie molto più intriganti, molto più interessanti, molto più fashion. Ma la storia di Giona è la storia del cuore e del desiderio di Dio. Ed è questo quello che noi dobbiamo cogliere, di una visione, di una missione che ci appartiene. Quindi per questo è importante che capiamo quello che succede. La prima parte che abbiamo visto qualche mese fa ci mostra Giona che prima decide, non decide di andare, poi Dio gli fa una custodia su misura per salvarlo dalle sue scelte e poi finalmente si decide ad andare a Ninive. E lui allora, ancora un po' scioccato dall'esperienza che aveva fatto, si mette in cammino e arriva a Ninive, questa città sulle rive del fiume Tigri, la moderna Mosul. E Dio, sapete come descrive questa città? La descrive così. Ninive, nel capitolo 4, il versetto 10. Ninive, la grande città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra. Un sacco di gente che non sa distinguere la sua destra dalla sinistra. Che cosa può significare una cosa del genere? Forse che erano dei bambini piccolini che ancora dovevano imparare la destra dalla sinistra. O forse può significare di persone che avevano perso la misura delle cose, avevano perso la realtà della vita che stavano vivendo, avevano perso la coscienza di quello che era bene e di quello che era male. Io penso che sia più la seconda cosa, infatti Dio li manda ad avvisare, dire se voi continuate a essere così malvagi farete una brutta fine. E poi sono stato a pensare a quelle che sono le nostre città, a quella che è la nostra società. Noi siamo sicuri di sapere ancora distinguere bene che cosa è bene e che cosa è male? Siamo così distanti dalla cattiveria o da non sapere più che cosa è il bene. Provate a pensare a tutti gli abusi sui bambini. Provate a pensare a tutte le donne. Ogni giorno c'è un femminicidio, ogni giorno. Perché qualcuno, ascoltate bene, qualcuno vuole bene a una persona, la uccide. Non è un po' come non sapere più qual è la destra e qual è la sinistra? In fondo Ninive non era tanto peggio di Bari, di Modugno e delle città nelle quali noi viviamo. La società dei Niniviti, speriamo che si dica così, non era tanto peggiore della nostra. E Dio che cosa pensa di fare con queste persone? Di mandarle, di avvisarle che sarebbe loro successo qualcosa di male. E ha scomodato un profeta nel popolo di Israele per mandarlo lì. E tra l'altro questo popolo era un nemico del popolo di Israele, però Dio non ha guardato che fosse nemico, guardava solo che erano persone che lui voleva salvare. Ecco perché il libro di Giona parla del cuore di Dio. Dio vuole salvare le persone, Dio vuole salvare un'intera città, Dio vuole salvare un popolo, Dio vuole salvare una nazione. E non ha importanza se lo meriti o meno. Non ha importanza quanta cattiveria c'è. Il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. Quando ho pensato a non saper distinguere la destra dalla sinistra, ho pensato a tutta la confusione che sta avvenendo nella nostra società riguardo al matrimonio. Noi lo sappiamo ancora bene bene che cos'è il matrimonio, che cos'è una famiglia. O più andiamo avanti e più siamo confusi. Io ho le idee chiare e voglio ringraziare mia moglie perché mi rende umile non soltanto quando corriamo, ma sta vicino a me e mi rende un uomo migliore. E io lo so che questo è il dono che Dio ha fatto a me. E questa è la mia famiglia. E ringrazio i miei figli per quello che hanno preso e per quello che mi hanno dato e che mi stanno ancora dando. Non è che siamo stati sempre tutti quanti d'accordo, però quella è la mia famiglia, quello è il dono che Dio mi ha fatto, quella è la responsabilità che Dio mi ha dato e ho le idee molto chiare. Ma queste idee più andiamo avanti più vengono confuse, perché basta volersi bene, si può essere famiglia, basta volersi bene e si può, cioè non fa niente di che figlio, come è venuto, non fa niente più. Questo è quello a cui noi stiamo andando incontro e ci scontreremo sempre di più con questo. E noi dobbiamo essere fedeli alla parola di Dio, essere fedeli alla parola di Dio e ai modelli che lei ci dà di quello che è la famiglia, di quelle che sono le responsabilità come genitori, di quello che è il bene e di quello che è il male, perché lì risiede la verità. Oggi la verità, sapete dove risiede? In un referendum. Uno ha un'idea, una qualsiasi idea. Fa il referendum, la maggior parte delle persone la pensa in quel modo, diventa giusto. Non è successo così con l'aborto? Non è successo così con il divorzio? Quelle persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, rischiamo di essere noi, se perdiamo di vista quello che è l'insegnamento che la parola di Dio ci dà. Però, non era questo che volevo dire, l'ho detto lo stesso, però, va bene. E il Signore manda a Giona. E Giona va là. E sapete che cosa gli dice al capitolo 3, al versetto 1? La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta, perché la prima volta non era troppo convinto, ha avuto bisogno della seconda volta Giona. Io ho bisogno anche della terza e della quarta, è inutile che ridete, ma è così. Alzati e va a Ninive, la grande città, e proclama a loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. E Ninive è una città grande davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. E Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questa era tutta la predicazione che Giona doveva fare, che Dio gli aveva affidato. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E io ci credo che Giona non voleva andare. Cioè, tu devi fare una predica di 40 giorni e dire ancora 40 giorni, poi ancora 39 giorni, ancora 38 giorni. E ci credo che Giona non voleva andare. Però quello era quello che Dio gli aveva affidato. E lui ha iniziato a camminare. Sapete, nel testo originale, quella parola proclama è un tantino diversa, in realtà significa piangi sulla città, piangi. È come se Dio avesse detto: piangi le mie parole sulla città di Ninive e digli che ancora 40 giorni e sarà distrutta. E c'è una differenza enorme in questo. Non ha detto predica contro di lei. Non ha detto piangi contro di lei, ha detto piangi su di lei. In altre parole, è come se Dio avesse detto a Giona: Giona, questo è il messaggio, è facile, è breve, lo puoi imparare facilmente a memoria, però non deve suonare come un giudizio, non deve essere una condanna, deve esprimere il mio desiderio di salvare la città. Questo era il cuore di Dio per la città di Ninive. Piangi su quella città. Da questo ne deriva qualcosa di molto importante. Se le nostre parole non riflettono il desiderio di Dio di salvare gli uomini, non esprimono il cuore di Dio. Non rappresentano Dio, anche se stiamo facendo la cellula, anche se stiamo al culto, anche se stiamo testimoniando, ma le nostre parole esprimono un giudizio o una condanna, non stanno esprimendo il cuore di Dio, perché il cuore di Dio è piangi su quella città. La parola che mia moglie ha suggerito per questo punto è compassione. Le nostre parole devono trasmettere la compassione che Dio ha per gli uomini. Giovanni 3,16 è il versetto che più conosciamo. Non è scritto per caso: Dio ha mandato il suo figliolo affinché chiunque crede a lui e non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato attraverso di lui. Non è la stessa cosa? E noi possiamo usare l'Evangelo come una voce di condanna, come una voce di giudizio, e si presta anche, razza di vipere, cioè, sta pure, si presta a questo, ma il desiderio, il cuore di Dio, e piangi su quella città le mie parole. Se le nostre parole non esprimono la compassione di Dio, non lo stiamo rappresentando. Teniamolo a mente quando partecipiamo ai gruppi familiari. Teniamolo a mente quando siamo insieme a parlare con gli altri. Teniamolo a mente quando siamo in qualsiasi situazione. Il cuore di Dio è la compassione, è l'amore per le altre persone, il desiderio di volerli salvare. E la predicazione però è rimasta la stessa. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, il che suona un po' come una condanna. È come quando tu vai dal dottore e dici: se non smetti di fumare devi morire. E tu pensi: vabbè, anche se smetto di fumare devo morire, quindi non fa niente. Dà di condanna una cosa del genere, ma il numero 40 nella Bibbia ricorre spesso. E io voglio citarvi alcuni esempi. 40 giorni è durato il diluvio. 40 giorni è il tempo che Mosè è stato sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge. 40 giorni è durata l'esplorazione della terra promessa. 40 giorni è il tempo che Golia ha umiliato l'esercito di Israele andandogli a dire: voi non valete niente, mandate uno che combattiamo, chi vince, vince tutto. Per 40 giorni è durata questa storia. 40 giorni è stato il tempo che Gesù è stato nel deserto per essere tentato. 40 giorni rappresenta un tempo di riscatto. 40 giorni rappresenta una seconda chance. 40 giorni rappresenta il tempo che Dio si prende e ci dà per afferrare il dono che ha per noi. 40 giorni è la seconda opportunità che Dio ci dà per ascoltare la sua voce. In altre parole, Dio sta dicendo a Ninive: il tuo destino è segnato dalla tua malvagità, ma io ho un destino diverso per te e fai ancora in tempo a cambiare il tuo destino. Questo è il cuore del messaggio che Dio aveva affidato a Giona. E siccome la parola di Dio ha un impatto spirituale e parla al cuore e parla allo spirito delle persone, i niniviti hanno capito. I niniviti hanno capito. In Giona, al capitolo 3, al versetto 5, è scritto: i niniviti credettero a Dio. I niniviti credettero a Dio. Giona ha parlato, non ha neanche nominato Dio e i niniviti hanno creduto a Dio. Com'è possibile? Cioè, perché non è che Giona fa tutta una predica per dire: guardate che io sono stato mandato da Dio, sono passato attraverso un pesce, mo non vi so raccontare tutta la storia, però è Dio che mi manda e ha fatto tutta la predica. No, lui era fedele nel dire quello che Dio gli aveva detto. Ma sapete una cosa? Quando noi usiamo le parole di Dio, e quando noi trasmettiamo il cuore di Dio, la parola di Dio parla. E la parola di Dio convince. E la parola di Dio salva. In quelle parole, innanzitutto erano le precise parole che Dio aveva detto. Non è che Giona ha iniziato a dire: vabbè, non vi preoccupate, stanno ancora 40 giorni, mo vediamo che cosa succede. No, lui è stato chiaro nel trasmettere il pericolo che c'era, nel dire quello che era il dramma che si stava avvicinando. E quando la parola di Dio dice: il salario del peccato è la morte, non sta scherzando. Cioè, non è che lo sta dicendo come ho sentito, sento dire: non andare là che sta il lupo. E i bambini dicono: io me lo mangio il lupo, io sono come Superman. È vero, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E questo è il cuore che è nella parola di Dio, e i niniviti credettero a Dio. Cioè, Gesù nel Matteo capitolo 11 a un certo punto dice: e i niniviti sorgeranno e giudicheranno questa nazione. C'è una predicazione così scema. Cioè, voi volete mettere la predicazione che sto facendo io con la predicazione di Giona? Non è neanche da paragonare. Ma i niniviti hanno creduto a Dio. E noi, con tutto quello che Dio ci ha detto, crederemo? O abbiamo creduto a quello che Dio ci ha detto? Comunque, i niniviti credettero a Dio. E fecero qualcosa di straordinario, al capitolo 3, versetto 5. Proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi ha preso lui la situazione in mano. Per decreto del re e dei suoi grandi fu reso noto a Ninive un ordine di questo tipo. Uomini e animali, come glielo dovevano dire gli animali non lo so, però così era, uomini e animali, armenti e greggi non assaggino nulla, non vadano al pascolo, non bevano l'acqua. Uomini e animali si coprono di sacco e gridino a Dio con forza. Ascoltate bene, ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà e si pentirà e spegnerà la sua ira ardente così che noi non periamo. È stupefacente. Quattro parole. 40 giorni ancora e Ninive sarà distrutta. Serve quattro parole. E 120.000 persone, almeno 120.000 persone si convertono. Forse questo è il miracolo più grande che possiamo trovare nella Bibbia. E dove sta la molla che fa scattare questo miracolo? La parola di Dio confessata con il cuore di Dio. Questo provoca una conversione vera. Sapete, quando noi ci siamo convertiti, ma continuiamo a essere le persone che eravamo prima, a fare le cose che facevamo prima, a dire le parole che dicevamo prima, beh, qualcuno ci deve convincere che ci siamo convertiti. Conversione significa ravvedimento. Conversione significa cambiamento. Ricordate la storia di Zaccheo? Beh, mo dai tutti indietro, dai. Non c'è un costo zero nella conversione. Non c'è un costo zero nel credere alla parola di Dio. Produrrà in te il desiderio di cambiare, produrrà in te la voglia di rimettere le cose a posto e in te si produrrà la voglia di lasciare tutto come sta perché ti sta bene. Ma quella è la conversione, quella è la conversione. Se una conversione non produce cambiamento, non è una conversione. Hai cambiato... Prima eri tifoso di una squadra e ora sei tifoso di un'altra, ma non stai giocando nessuna partita. Prima eri tifoso di una squadra, ora sei tifoso di un'altra, ma non stai giocando nessuna partita. La conversione ti chiama a giocare la tua partita per l'avanzamento del regno di Dio e per la gloria del suo nome. Comunque, Dio vide, il versetto 10, vide ciò che facevano, che si convertivano dalla loro malvagità, quindi dalle intenzioni erano passati ai fatti, e si pentì del male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. Adesso abbiamo bisogno di capire bene queste parole. Si può pentire Dio? Può cambiare idea? Significa che era sbagliato quello che voleva fare prima? È molto, molto semplice, è molto chiaro quello che è scritto. La relazione dei Niniviti con Dio era cambiata e quindi è cambiata la relazione di Dio nei confronti dei Niniviti, proprio perché Dio è fedele a se stesso, proprio perché Dio è fedele alla sua parola, non può serbare rancore, non può rimanere fermo nelle sue posizioni. Hai sbagliato e devi morire. Così facciamo noi. Hai sbagliato, devi morire. Dio è fedele. Hai sbagliato, ti sei pentito, ti perdono. E anche se non ti penti, ti perdono lo stesso. Però queste parole non sono piaciute a Giona. Hanno creato un altro problema. Si è risolto un problema e se ne è creato un altro. Giona provò grande dispiacere quando si rese conto, evidentemente erano passati 40 giorni e non era successo niente, era successo solo che Ninive si era riscattata, era diventata un'altra città dove la polizia non c'aveva niente da fare, i vigili urbani non facevano più multe e tutti andavano d'accordo, nessuno cercava di imbrogliare l'altro e vivevano tutti in pace, era diventata una bella città Ninive. Però a Giona questo fatto gli andava stretto, non gli è piaciuto, dice a me questo fatto non mi piace. È scritto nel versetto 1 del capitolo 4, Giona ne provò gran dispiacere, cioè Giona ha provato dispiacere che le persone hanno creduto alla sua predicazione, cioè, e così è scritto. E ne fu irritato, cioè non è che si è dispiaciuto soltanto, si è arrabbiato pure. E allora pregò e disse, Signore, non era per questo che io non volevo venire, che io lo sapevo che tu mi facevi dire una cosa e poi ne facevi un'altra. Questo stava nel cuore di Giona, perché Giona non condivideva il cuore di Dio. Giona non condivideva il desiderio di Dio di salvare gli uomini, non condivideva il desiderio di Dio di salvare un popolo, non condivideva il desiderio di Dio di salvare una città. Giona si fermava al fatto, hai sbagliato, devi morire. E non era d'accordo con quello che Dio stava facendo. Ora, io non lo so voi, ma io mi sono ritrovato molte volte a non essere d'accordo con quello che Dio fa. Non ho mai pregato, Signore, fammi morire, questo non l'ho ancora detto per la cronaca, però molte volte io non sono tanto d'accordo con quello che Dio decide di fare e come lo decide di fare. Giona pensava diversamente, pensava che Dio stava mancando alla sua parola, pensava che Dio stava sbagliando e pensava soprattutto che lui avrebbe fatto meglio di Dio. Io non lo so voi, ma io l'ho pensato. Forse non l'ho detto così chiaramente, così apertamente, ma io l'ho pensato. Ma sapete che cosa è successo? È successo qualcosa che mi ha commosso. Dio si è preso cura di Giona. Cioè Dio, che aveva a cuore la salvezza di un'intera città, aveva a cuore la salvezza di tutti gli uomini, ha avuto l'intenzione di lasciare tutto e di prendersi cura di Giona. Dio questa mattina vuole lasciare tutto e prendersi cura di te, della tua rabbia, del tuo rancore, della tua delusione, della tua amarezza, della mancanza di perdono, del rigetto, di quello che hai subito. Dio vuole lasciare tutto e vuole prendersi cura di te. E questo è qualcosa che mi ha toccato assai, mi ha fatto bene, perché io ho bisogno di questo. Io ho bisogno che il Signore si prenda cura di me. E il capitolo 4, il versetto 5 dice, allora Giona uscì dalla città e si mise seduto per vedere che cosa succedeva. Si fece una capanna e Dio, per calmarlo dalla sua irritazione, cioè Dio non è che ha fatto le cose così, no, ha fatto un piano, ha fatto una strategia, ha mosso le cose attorno a Giona per calmarlo, per guarirlo. Le cose che ti succedono intorno, è vero che le fa il diavolo, ma vedi che anche Dio le può usare per guarirti. E siccome Dio è più forte del diavolo, alla fine, per questo è scritto che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Perché Dio può prendere le situazioni più brutte, riscattarle e farle promuovere per il nostro beneficio. E questa è una notizia grandiosa. E allora che ha fatto Dio? Per calmarlo dalla sua irritazione, fece crescere un ricino che sale al di sopra di Giona per fare ombra al suo capo. E Giona provò una grandissima gioia. Da essere depresso, da essere deluso, da voler morire, l'ombra di una pianta, neanche un ombrellone con la birra fresca, no, l'ombra di una pianta lo ha fatto gioire. Se fosse scritto, lo hanno portato in un come si chiamano quei posti dove fanno i massaggi, come si chiamano? Nei centri benessere, hanno preso a Giona, l'hanno portato in un centro benessere, hanno fatto i massaggi, hanno offerto da bere, l'hanno messo, ma Giona lo si è sentito me, ma l'ombra di un ricino. Questo è il valore che noi diamo alle cose, questa è la nostra vulnerabilità, questi siamo noi, che basta niente per farci cadere il mondo addosso. Questi siamo noi, siamo io e te. Comunque Giona si è sentito contento di questo fatto. L'indomani, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rossicchiare il ricino e questo si seccò. E dopo che il sole fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale, sarebbe lo scirocco. E il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir meno. E allora chiese di morire dicendo: è meglio che mi fai morire piuttosto che vivere. E Dio disse a Giona: ma di nuovo, ma fai bene a dire così? E questa volta Giona ha risposto. Mentre la prima volta che Dio le l'ha chiesto, Giona non ha avuto il coraggio di rispondere. Adesso era così profonda l'amarezza, era così profonda la delusione, era così profondo il suo dolore che ha detto sì, Signore, per me è meglio che io muoio. Però quelle parole sono state anche quello che ha fatto venire alla luce la strategia di Dio, che era molto semplice, perché Dio le ha detto: come? E tu per un ricino che è morto ti stai avvelenando in questo modo che vuoi morire, e io non avrei dovuto prendermi cura di un'intera città che stava per morire? State attenti che questo di nuovo non era un giudizio sulla vita di Giona, non era una condanna, era la grazia di Dio per fargli vedere che io mi preoccupo di te come mi preoccupo di loro. Io ho nelle mie mani, sono io, gli stava dicendo Dio, che ho fatto nascere la pianta, e sono io che ho fatto nascere il verme, e sono io che ti posso portare veramente in un centro benessere, sono io il Signore. Sono io il Signore. E lui si aspettava che Giona in qualche modo facesse quel che i Niniviti avevano fatto, si pentisse del suo orgoglio, della sua arroganza, chiedesse perdono a Dio e iniziasse a lodarlo per Ninive, per il ricino e per il verme, perché tutte queste erano opere che Dio aveva fatto. E Dio, come ha fatto con Ninive, non avrebbe perso tempo nel mettere di nuovo in moto la possibilità di benedire la vita di Giona. Purtroppo noi non sappiamo come è andata a finire questa storia, perché finisce proprio così, con questa domanda che Dio fa a Giona. Dice: e tu hai avuto compassione, e io, cioè tu non hai avuto compassione. No, tu hai avuto compassione del ricino e io non dovevo avere compassione di una città. E c'è un punto e finisce lì la storia. Però la nostra storia continua. Continua adesso, questa mattina. E Dio vuole prendersi cura di noi. Dio vuole che noi gli diamo di nuovo la possibilità di intervenire nella nostra vita e che noi possiamo arrendere a Lui le nostre amarezze, le nostre delusioni, i nostri dubbi, la nostra rabbia e che possiamo riconoscere che Lui ha il controllo di ogni cosa e dargli il controllo della nostra vita. Vedete, Giona, ascoltatemi bene, Giona era più lontano da Dio quando era sotto il ricino che quando era nella pancia del pesce. Perché mentre nella pancia del pesce, a causa anche della paura, ha iniziato a pregare, sotto al ricino seccato ha iniziato a maledire se stesso. Quindi la gravità di quello che stai vivendo non dipende dalle circostanze che stanno intorno a te, dipende da quello che stai vivendo dentro di te. Ed è a quello che io ti chiedo di guardare questa mattina. Per fare semplicemente quello che Dio si aspetta che noi facciamo. Ridare a Lui l'onore e la gloria, ridare a Lui la possibilità di guidare la nostra vita, di riprendere il controllo della nostra vita e benedire la nostra vita. Per una ragione molto semplice, perché Dio ha bisogno di molti altri Giona per conquistare le città che sono intorno a noi. Dio ha bisogno di te, ha bisogno di me, come aveva bisogno di Giona. E come i limiti e le difficoltà che Giona aveva non sono stati un problema per Dio per raggiungere il suo scopo e per usarsi di Giona, così i nostri limiti, le nostre difficoltà non sono un problema per Dio per usarsi di noi. Ma quello che è necessario è che noi riconosciamo che Lui è il Signore e che noi abbiamo bisogno di sapere la verità ed essere umili da accettarla e da prenderla per la nostra vita. Vogliamo alzarci in piedi? Io vorrei pregare un momento. Signore, io ti voglio ringraziare per questa parola e ti voglio ringraziare che nelle vite nostre, nella vita mia, non sta il punto come sta nella vita di Giona, che non sappiamo che fine ha fatto, ma noi abbiamo ancora adesso la possibilità di continuare a scrivere la nostra storia. Aiutaci, Signore, a scriverla con te, a scriverla per te, per la gloria del tuo nome, per l'avanzamento del tuo regno. Signore, benedici la tua chiesa. Aiutaci a riscattare le nostre città per la gloria del tuo nome. Grazie, Gesù. Amen.